pensieri tuoi. Ci vorrei restare, non lo dico mai, ma ci sto tanto bene. In quel posto poi ti ci devo portare, non l'ho fatto mai e ci stai tanto male. Ma siamo un viaggio senza meta, nascosti fra le righe di un vecchio poeta. E se ci perderemo poi lungo la strada, sarò dove finisce una stella cometa. Chiudi gli occhi e poi ascolta i battiti, un passo avanti e sarò lì. Solo adesso ho capito che ogni singolo passo era verso te. Siamo bussole, come fosse già scritto un disegno nel cielo, come nuvole che volano verso te. Vi ho seguite sempre. I respiri tuoi li conosco a memoria. Se li ascolto, sai, capisco quanto hai voglia. E quei giorni in cui ti sentivo lontana, ero io, lo sai, scusa se ti ho incolpata. Ma non siamo solo un'altra storia di quelle cominciate fra i banchi di scuola. E tu che mi hai fermato lungo la mia strada e non ho fatto sosta perché eri la meta. Chiudi gli occhi e poi ascolta i battiti, un passo avanti e sarò lì. Solo adesso ho capito che ogni singolo passo era verso te. Siamo bussole,